Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non volevo disturbarla. Ma si levi dalle palle, per favore. Avete rotto i coglioni! Ma avete rotto le palle! Chiaro! Io la lasciavo anche andare dove volevo. Mi diceva non volevo parlare. Ma vado a fare il culo lei e tu ti fai un mezzo. Senta, io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni, però voi siete due imbecilli. Quell'altro, l'Alitalia lo dovrebbe portare in Israele, quello stronzo. Sono Parenzo, intanto, buonasera e lieto di fare la sua conoscenza. E fammi parlare, stronzo! Caro David, come godo, come godo, come godo, come godo, amico mio, come godo. Il signor Gratteri, io parlo di magistrati molto in questo periodo, il signor Gratteri, per chi non lo conoscesse, Gratteri è un grande combattente dei giorni nostri, un grandissimo magistrato, anche se non è favorevole per esempio alla legalizzazione della droga leggera, come lo sono io, ma questo è un dettaglio, chi se ne frega, è uno integerrimo, una persona serissima. Bravo. Che dice a proposito del suo collega Zuccaro, oddio mio, Zuccaro, non me lo dire, a proposito di Zuccaro, quella figura ormai mitica che ci ha aperto questa nuova strada, ha fatto capire all'Italia che c'è del marcio, c'è del marcio in nell'accoglienza agli immigrati. C'è del marcio. C'è del marcio. Certo, c'è la criminalità organizzata, come ha detto il signor Gratteri. Certo, Gratteri, cosa ha detto? Alcune ONG erano in contatto con gente in Libia. Parlavano di quando incontrarsi e dove sbarcare. Sì, infatti, va bene. Bisogna mandare i servizi segreti in Centrafrica, da dove partono questi flussi di migranti. Sì. Ragazzi, lo diciamo adesso con tutto rispetto per Gratteri, ma il signor Luttuak qui lo dice da anni. Mandare gente in Africa per bloccare tutto, bombardare i barconi vuoti prima di che partano, fermare il flusso si può. Eccolo, si può. Sfermare solo che non si vuole. Certo, solo che non lo si vuole fare per convenienze, signore, per mafie e per soldi. È chiaro o no? Dovrebbe essere chiaro anche a te. Invece no, continui. Se uno vuole fermare il flusso, per carità, di disperati, tra cui la ci sono anche rotta dei disperati tra i migranti del Niger che sognano il biglietto per l'Italia. Ma che c'entra? Il paese africano è una tappa obbligata per chi dalla Libia vuole arrivare in Europa. Ma allora deve prima subire torture e minacce di trafficanti e criminali. Se ne occupassero in Africa. Grande reportage di Vincenzo Nigro. Ma oggi se ne occupassero Repubblica. In Africa, se ne occupassero in Africa, chi se ne frega? Dopodiché sul suolo italico combattere la criminalità, come ha dimostrato Gratteri con fammi le sentire, prove. Fammi sentire cosa qualcosa. Vuoi sentire? C'è fammi da sentire, sentire, c'è da chiudere. No, voglio sentire Giobbe Covatta, che la pensa come te. Ottimo, e dice Covatta. Abbiamo fatto carne di porco dell'Africa. Vabbè, ma questo che c'entra? No, che abbiamo fatto carne di porco dell'Africa. Non ora la colpa è nostra che c'è il colonialismo? No, questo non lo penso. Non lo pensi. No, non lo penso. L'Africa è un posto che noi continuiamo a pensare essere un posto pieno di debiti. L'Africa è piena di crediti, ci siamo portati via tutto, abbiamo fatto carne di porco per 200 anni e adesso ci lamentiamo del fatto che dopo che abbiamo massacrato un continente, quelli che ci abitavano prima stanno messi male. Posso dire che questa, veramente, con tutto rispetto di Giobbe Covatta, è una puttanata sesquipedale. In parte può essere vero anche questo, in parte. Ma che vuol dire? Vuol dire niente. Dopodiché la responsabilità è dei dittatori, allora, che hanno governato, torniamo, quei paesi. Allora c'era la rivoluzione francese, non lo so, la colpa è di quelli che ma dai, la colpa su. È di quei dittatori che hanno governato quei paesi. Sono un sociologo qui adesso. Non c'è sociologo. Ti voglio far ascoltare. Non è una democrazia liberale il Niger, diciamo così. Ti voglio far ascoltare. Una cosa, su questa vicenda di Renzi, lo posso dire chiaramente, il leccaculismo di alcuni, sì, perché va benissimo, per carità, la reazione di Renzi, adesso poi sentiremo su questa intercettazione apparata oggi su Facebook, però ti voglio fare sentire, mettiamo anche i violini, vi prego, mettiamo i violini che stanno a spiegare, i violini stanno a spiegare proprio alcuni giornalisti, alcuni che appaiono in televisione, come elogiano continuamente il loro leader. In questo caso anche praticamente da dipendenti di questo leader che è Renzi, dipendenti provvisoriamente, però sempre dipendenti. Uno che non è conosciuto al grande pubblico, ma è conosciuto al pubblico della politica, si chiama La Via. Si chiama La Via. Beh, La Via. Si chiama La Via. No, è conosciuto da te. È conosciuto da te. Se vai in giro e dici chi è La Via, chi è La Via? Nessuno lo conosce. È un giornalista dell'Unità. Nessuno lo conosce. Ma però, va bene. Ma non è un'accusa. Non è un'accusa. È un giornale di partito. Però senti cosa dice. Ma sì, ma dice, è un giornale di partito. Senti, ma senti, senti, lo dicessi allora. Sono un dipendente di Renzi. Non è un dipendente. Sono un dipendente di Renzi. È un giornale di partito che, come sai, l'Unità purtroppo. Senti, non mi fa incazzare questa cosa qua, perché uno va bene tutte le analisi. Ma quando uno dice queste cose qua dovrebbe rendersi conto della ridicolaggine. Senti. Intanto vorrei dire che le intercettazioni pubblicate dal Fatto sono un monumento equestre a Matteo Renzi, il quale ne esce come uno che dice al padre, quindi anche con una delicatezza umana, diciamo, che si può immaginare, di la verità. Quindi un figurone da uomo, oltre che prima ancora che da statista. Ma nemmeno Kim Jong-un, dai, ma roba da Corea del Nord. Un figurone da uomo e da statista. Ma che è? Ma che roba è? Ma è una cosa assurda, dai. Renzi sul padre. Babbo, questo non è un gioco, devi dire la verità, solo la verità. Fai prima a dirla te che non a fartela raccontare dagli altri. Mio padre non ha mai visto un tribunale fin tanto che suo figlio è diventato premier. Per me questa è stata una telefonata umanamente molto difficile. Alcuni dicono che è tutto concordato, che è tutto un teatrino perché sapeva di essere intercettato. È una interpretazione possibile, naturalmente. Qui noi siamo aperti a tutto, non è che siamo facciamo la via noi, È sicuramente un'interpretazione possibile. Non abbiamo una via che qualcuno ci indica. Non abbiamo una via che qualcuno ci indica. Il giornalista La Via, ma che io conosco benissimo, adesso, ottimo direttore, fa il suo lavoro. Lui è un giornalista dell'Unità. Il monumento di Renzi, dell'Unità TV, no? Il monumento di Renzi. Ha espresso la ma chi se ne frega adesso, però, di vedersela con La Via. Non è un problema, non frega un cazzo a nessuno. Dai, no, ma stiamo discutendo pacatamente, sì, serenamente, sì, va bene, con il lavoro. Chi ha detto, mica ho detto con criminale, ho detto con che grande. Uno che ha fatto in questo caso un monumento a Renzi, da dipendente di Renzi, un monumentino. Devo dire però che umanamente queste intercettazioni mi feriscono, perché in quella telefonata io sono molto molto molto duro con mio padre, e rileggendole un po' ti dispiace, da uomo, da figlio, perché insomma fare un interrogatorio telefonico a tuo padre non è il massimo. Allora, il sindaco di Trieste viene messo sotto accusa perché ha detto: una volta ho preso per il bavero il negro. Per il bavero il negro. Ora, ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo, dai, cosa incredibile. Incredibile. Cosa? Cosa? No, vai avanti, mi aspetto che le dimissioni, ma andiamo avanti. Le dimissioni? Assolutamente. Perché ha detto, ho preso per il bavero il negro. Sì, dimissioni come minimo. Ma minimo dai, dimissioni. Su, non dire cazzate. No, dai. Ma lo dico, guarda, senza arrabbiature, con una lucidità assoluta. Dimissioni di un rappresentante delle istituzioni. E ha detto, ha raccontato di aver preso per il bavero un negro. Non è Cruciani della Zanzara, è il sindaco, non è Mauro da Mantova, non è Donato da Varese, non è questi ma altri. Ma cosa c'entra? Ma la parola Cristi, negro, va stoganata. Questi altri Cristi che non hanno niente da fare tutto il giorno, anziché lavorare, come tante delle persone che ascoltano in macchina dopo una giornata faticosa, telefonano subito all'800 24 24. Sono quattro miserabili. E quel sindaco non è uno, non credo sia uno di questi quattro miserabili che non ha nulla da fare tutto il giorno e telefona alla Zanzara. È un sindaco, si deve dimettere per la porcheria che ha detto. Ma perché, va, ma quando mai? Viva di piazza! Viva di piazza! Ecco, di piazza! Viva il politicamente scorretto! Ma cosa vuol dire? Viva la verità! Lo ha detto senza. Ma non lo ha detto dicendo lo sporco negro. No, non lo ha detto, sentiamo, non l'ha detto. Sentiamo, con... sentiamo. Allora, prendo per il bavero questo negro. Cioè, l'ho preso per il bavero. Cioè, una ragazza venuta da lei le ha detto: guardi che quello lì. No, mi ha messo le mani addosso. Lo prendo per il bavero e dico: ma cosa fai? E lui mi fa: lei non sa cosa mi ha detto. C'è il tipo, ho detto, sono il sindaco. Mi fa: non mi interessa che lei è il sindaco. Ma non mi pare una cosa razzista. Gravissimo, dai, ha preso gravissimo per il che un sindaco un... sdogani un linguaggio potenzialmente violento e razzista. Non si è pentito, senti. Sindaco, lei è stato molto criticato per questo video, insomma, per le sue affermazioni, ma si è pentito, no? Io ho pentito, ma guardi che io devo tutelare la mia città e cerco di farla al meglio e mi creda, visto che sono... Vai, avanti così! Ecco l'altro. Avanti ecco così! L'altro, senza ecco l'altro. Paura! Ma contro paura il boldrinismo! Contro il boldrinismo! Contro il politicamente corretto! Contro tutti i ben pensanti! All'attacco! Sempre all'attacco di piazza! Ma cosa vuoi attaccare? Sempre all'attacco di piazza! Governi quella città, faccia delle robe, ma non sdogani stava il razzismo! Stava fermando ma uno che potenzialmente aveva fatto qualcosa di male a una ragazza. Ma quello è un forza di piazza! Lo direi anche di un sindaco di sinistra. Non è importante che sia un sindaco di centrodestra. Ma come? Guarda la Serracchiani che ha detto. Mi auguro. Infatti ha detto una sciocchezza. Non è sindaco, è governatore della regione. Ha detto una sciocchezza e io dico che ha detto una sciocchezza. D'accordo. Siamo al top. Siamo al top, Cruciani, siamo al top. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presento La Zanzara. Dai, zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Dai, cazzo. Allora, devo segnalarti, caro Davide, che questa canzoncina verrà messa in diverse discoteche italiane. C'è questo rap pro zucchero che sta spopolando, perché questo signore qui, a sua insaputa, naturalmente è diventato uno dei nostri idoli assoluti, perché ha scoperchiato indirettamente, certo le prove, sì, vabbè, vedremo, quello che sarà, ha scoperchiato quello che nessuno aveva osato scoperchiare, il marcio, i contatti tra quale le ONG... Marcio? E i libici supposti ci sono ONG, e i trafficanti e alcune ONG neppure il italiane, servizio peraltro. Taxi che viene fatto dalla mare alla terraferma, quanto ti esalta eccetera eccetera, sì, mi esalta da morire. Questo godo, non deve mettere godo, in discussione godo in alcun modo ma il principio di salvare vite ma umane sì, cosa se uno che sta morendo lo salvi anni, questi... cosa che avviene da anni al netto del fatto che non ci sono infiltrazioni. Però io ti criminali. Voglio far ascoltare una cosa, ti voglio far ascoltare un genio, uno che si è inventato i materassi vegani. Dici una cosa incredibile. Cioè allora, senza le più, senza non le lo più, so, non senza... lo so qual è la storia, però è un genio. Costui è un genio. Ha messo dei grandi manifesti, grande pubblicità, non so dove, e c'è anche la sua voce che ti spiega. Vieni da me, coglione vegano, dico io. Acquista questo materasso. Vieni da me, coglione vegano. Non tutti vegani. Sottotesto, coglione vegano. Beh, così sì. Uno che vuole comprare il materasso vegano, dimmi te se non è un coglione. Perché uno che si compra un materasso vegano è tecnicamente un coglione, lo dico io. D'accordo. Tecnicamente un coglione, chiaro? Quanto li venderebbe i materassi vegani, d'accordo, secondo te? Beh, cari amici, siamo tornati a vendere! Tornati in diretta sulla radio 24! Anche lei è salita sul carro dei vegani, assolutamente! Il veganesimo è il futuro, d'accordo? Abbiamo un materasso vegano! Che vuol dire sostanzialmente un materasso dove c'è soltanto una rete no, come una rete in legno durissima costo 42.000 euro. Ma come? D'accordo? Ma se non lo comprate morirete. Ma come morirete? D'accordo? Ma come? D'accordo? Vai. Solite tagliatelle e ragù? No, da oggi si cambia. Pasqualina, è buona l'insalatina. Riccardo, ma cosa sta succedendo? Semplice, anche il riposo è vegano. Nuova linea di materassi vegan in memory, ora in offerta Lancio. Il materasso che migliora il tuo riposo, rispettando animali e ambiente. Ma ti rendi conto o no? Se stupendo. Dimmi che non è un genio questo qua, è un totale. Genio. Ci sarà qualche coglione vegano che ci cade in questa roba. Magari non so com'è fatto un materasso vegano senza piume di animali, non so con... Sì, ma capisci che... Vabbè, sentiamo ancora. Abbiamo fatto la linea alle alghe, un trattamento particolare sulla fodera che vi permette anche un'azione antinfiammatoria. Inoltre abbiamo una linea anche alla soia. La soia, un procedimento naturale con dei filamenti particolari che abbiamo abbinato l'argento al carbonio. Comunque posso dire una cosa, Vito, qui ci vuole Vanna Marchi però per vendere questa cosa, eh? Sì, alla sì. Soia, le alghe, chiamala, chiamala, la fodera, Vanna. Stupendo. Chiamala che torna dai, in grande spolvero. Le alghe, la soia! Hai visto le alghe? Dai, su, di cosa parliamo, ragazzi, su. Geni, sì, questo è un genio, questo è un genio. Gli altri tecnicamente coglioni. Chissà come sta anche la signora Stefania Nobile, quella adorabile figliola. Lasciala perdere, signora Nobile. Ma faranno infatti loro la loro adorabile, vita. Adorabile, dai, su, adorabile coppia quella lì, adorabile. Federico da Milano, sono sparite un po' dalla circolazione. Proprio gente per bere, gente che se tu vedi per strada la notte, sì. Cambi marciapiede, come minimo. Come minimo. Federico, dimmi. Certo. Pronto, eccomi. Buonasera. Pronto. Dimmi. Volevo chiedere a Parenzo come tecnicamente possibile. Buonasera intanto. Buonasera, vai, a lei, ragazzi, non mi rompete cazzo con questo che buonasera. Con settimana di anticipo venga annunciato che verranno fermati gli sbarchi in Sicilia in occasione del G7 di Taormina, quando per anni ci hanno fracassato i coglioni che non era possibile né tecnicamente né politicamente. Com'è possibile? Perché è evidente che era una buffonata quella di prima. È bravissimo. Ma mi pare chiaro, non c'è nessuna buffonata, ragazzi. Ha ragione nel dire che i migranti vengono trasportati da un sistema Uber taxi da dove partono. Ma non diciamo stupidaggini. Tecnica... Beh, mi spieghi lei com'è possibile che venga. Non diciamo stupidaggini. Io forse dico stupidaggini. Faccio una domanda a lei: com'è possibile tecnicamente che si possa annunciare? No, guardi, glielo spiega una del PD che si chiama Morani, che l'ha detto: in quella settimana li dirottiamo in Calabria e Sardegna. Ah, ok. No, ma senti, mettiamo l'assurdità. Dunque, è tutto concordato. Ma cos'è concordato? Cioè, non avviene tutto per emergenza. Non c'è l'emergenza. No, ma cosa stai dicendo? Ma lo dicono loro. Ma non è vero, hanno detto Parenzo, ma quali luoghi comuni? Aspetta, senti questa qua, senti questa del PD. Ti spiego cosa intende, te lo spiego cosa vuol dire. Ma che sei, l'interprete della Morani? No, ma quel che è evidente. Senti. Sì, verranno dei migranti, dei profughi o richiedenti asilo e dovremmo soccorrerli, li dirotteremo in porti diversi rispetto a quelli della Sicilia, quindi in altre regioni italiane come può essere la Calabria o la Sardegna. Sì. Dunque è possibile qualsiasi cosa. Non è possibile. Ma non è che sa che verranno. Ma poi perché? Ma perché, ma perché devono andare in Calabria e in Sardegna? Ci sono ragioni evidentemente di sicurezza, perché in quel momento ci sono i grandi. Comunque, della terra. Il genio dei materassi vegani e di Montecatini Terme si chiama Riccardo Corredi, mito delle televendite toscane anni 80. No. A dopo, ragazzi. Signora del Santo, sa che cos'è lo squinting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. La zanzara. Parezzo! Non si entra nell'angolo rotture della zanzara! Ah! Brucia, ma niente fosse pure ricchione. Amore, ascoltiamo la zanzara? No, mi fa schifo! Ditemi voi se è possibile ritrovarsi a canticchiare perché è una bella bestia, pagato dal Mossad, pagato dal Mossad, perché è una bella bestia, pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Alle donne devono essere regalati i fiori, vanno portate a teatro, vanno corteggiate e dopo si schierano. Parenzo, quando vuoi. Beh, caro David, questa è un'offerta! Un'offerta clamorosa! Che fai? Che fai? Ma la tosse a sentire questa chiamata. Ma perché? Scusa, è brutta la tosse. È una grande offerta sessuale che ti hanno fatto in diretta quando hanno sentito da te quella parola. Le donne si invitano a cena, sì, si corteggiano e mai poi si schierano. Genere, si è genere. Risvegliato. Un intero popolo, no. Un intero popolo che voleva sapere da te, no, voleva sapere da te e voleva conoscere te, la tua parte animalesca, la tua parte bestiale. No, questa donna si è offerta. Questa donna che noi identificheremo e porteremo qui. Porteremo qui in questi studi. Anzi, la invito a mandare un messaggio ancora, a chiamare. E a venire qui di persona a offrirsi al conduttore, sono pronta a essere schienata. Giuseppe Cruciani ha detto animale, sai come nell'Andrangheta, noi sono tutti i nomi, no? Che c'è Pippo Gurto, ho detto la bestia, tu sei detto animale. Parenzo, quando vuoi. Bellissima questa voce. Io mi sarei arrapato già. Perché io, secondo me, un po' ti sei già arrapato. No, tu ti sei un po' arrapato. Dottore fa play aperitivo. Play. No, 19:20 è aperitivo. Play aperitivo. Comunque, ragazzi, il Partito Democratico è una cosa incredibile. Allora, la questione dell'intercettazione ancora di Renzi col padre. A me, del contenuto, devo dire la verità, di tutte queste discussioni. Beh, quello è il tema, la madre, lui che parla col padre, dico, non me ne frega un tanto, ognuno dice la sua. Renzi dice che è una cosa nobile, dice che è una prova della sua, come dire, della sua limpidezza, e dice che tutto quello è. Gli altri dicono, è una truffa, lo sapeva già, anzi, perché ha nominato la madre, ha messo in guardia la madre. La frase è, ma quelle intercettazioni erano segretate o no? La cosa più bella è Medjugorje, è la frase che ha detto su Medjugorje, devo dire la verità, la cosa è stupenda. Sì, quella è interessante. È stupenda. Quella è interessante. Che cosa che ha detto la al padre? Voce, il tono con il quale che l'ha cos'è detto? Che ha detto al padre su Medjugorje? Ma cos'è il solito giro di merda di, come di Medjugorje? Dei toscani di Medjugorje, come dire, il solito giro di poveracci sembra essere. Che vanno a Medjugorje. Se uno devo dovesse interpretare il sottotitolo. Sì, mi ha fatto emozionare questa cosa, che effettivamente questa buffonata di Medjugorje è intollerabile. Anche Renzi dice che è il solito giro di merda di Medjugorje, di questi pazzi che vanno lì a credere alla Madonna. Vabbè, ma al di là di questo, la questione è molto semplice. Fino a poco tempo fa, questi del PD rompevano i coglioni sulla questione delle intercettazioni. Erano intoccabili le intercettazioni. Quando riguardavano il Berlusca o altri, erano intoccabili. Intoccabili. Beh, non è vero, ci sono dei disegni di legge presentati, sì, lascia, come però, tu scusami, sai. Lascia stare, no, ma non lascia perdere la sostanza. Ma chi se ne frega? La regolamentano. Senti, quando David, possono essere pubblicate. Non mi fare incazzare con queste cose formali. La realtà è che il PD non ha mai fatto una legge per limitare la pubblicazione delle intercettazioni. Certo, adesso rompono i coglioni su queste interpretazioni, su queste intercettazioni uscite tra Renzi e il padre. Dovrebbero stare zitti, muti, non gridare al colpo di Stato, soprattutto gente che è al governo. Allora dico, fatele le leggi, no? Per evitare la pubblicazione. Certo. Siete al governo, avete la maggioranza, inutile che strillate al colpo di Stato. Se c'è un colpo di Stato, avete la maggioranza in Parlamento, fate le leggi invece di rompere i coglioni. Senti Romano del PD, ex sciolta civica, sempre da ricordare. Siamo di fronte a un atto di barbarie, a un colpo allo Stato di diritto. A me fa veramente specie che Gomez, che ha una nobilissima carriera giornalistica, difenda un atto di questo tipo. Tra l'altro lo difenda in nome della legalità. Questo è un atto illegale, lo dobbiamo ribadire in tutti i modi. Sì, allora, amico mio Romano, se però è un Romano atto illegale, sempre sostenute ste cose, ma non mi interessa, perché non viene... è espressione del PD. Sei una è nella maggioranza, Romano. Sì, proponga, ma lui l'ha sempre proponga, nel merito, non me ne frega nulla. Che l'ha fatto ascoltare, proponga, ha sempre sostenuto sta proponga cosa, giustamente. Una legge per limitare la pubblicazione delle intercettazioni invece di chiacchierare in televisione e gridare al colpo di Stato. No, lo proponga, la porta avanti. Siccome dice che c'è un colpo di Stato, non ci vengano a rompere le balle. Siccome sono anni che si parla di questa cosa, per me va bene tutto. Pubblicassero qualsiasi cosa, va bene tutto, tutto. E comunque, quando riguardavano Berlusconi, non dicevano niente. Nulla, nessuno di questi, nessuno. Forse Romano sì, altri no. Gianluca, provincia di Roma, vai. Ciao Gianluca! Vai Gianluca! Buonasera. Dimmi Gianluca. Volevo dire una cosa, dottor Cruciani, che lei fa molte battaglie, come ho incrociato per me, ha fatto ottime battaglie. Ma io un crociato non mi sento, non mi sento affatto un crociato, amico mio. Vabbè, ti sbagli, Cruciani al massimo mi sento, no, crociato. Una battaglia per il popolo, per noi. Ma che per vuol popolo dire? Ma non conta, non c'è, ma figuriamoci se faccio una battaglia per il popolo. Ma figuriamoci. Dai. No, ma che vuol dire per il popolo? Non significa un cazzo. Vabbè, però mi faccia finire. Lei, ma che vuol dire il popolo? È una cosa indistinta, non vuol dire niente il popolo, il bobolo. Popolo italiano, guarda. Ma non vuol dire nulla, è una frase inesistente il popolo italiano, basta con queste cose. Lo faccia per me allora. Ma io dico, parla sempre dei sex comunitari, questi ragazzi vengono col barcone, no? Che non c'è. Questo è un diciamo troll, però, mezzo troll, eh? Questo. Sembri un troll, suo amico mio, sembri uno finto, dai, comunque. No, dimmi. No, è vero, non so, è vero. Dico, questi che vengono, questi ragazzi che mi prendono, mettono dentro a ste case, ammucchiano. Viene a rubare casa dell'aria, questo. Sì. Noi italiani, se ce la mettessero che pure a casa mia posso ospitare qualcuno e prendere anch'io i soldi che prendono i signori politici. Sì, ma senti, vai a fare in culo, vai. Silvia da Parma, dai. Ciao. Silvia, dimmi. Silvia? Silvia? Pronto? Dimmi, dimmi. Allora, buonasera. Senta, io volevo dire una cosa a Parenzo. Eccoci qua, pronti, cara signora. Grazie per aver chiamato. Ecco, faccio i complimenti per il suo doppio pesismo che è eccezionale. Grazie, grazie, grazie. Benvenuta tra intanto. Le dimissioni del sindaco di Trieste, sì, la sciocchezza detta dalla... dalla Serracchiani. Hanno due pesi, hanno due pesi diversi, perché io ho detto che la Serracchiani ha detto una sciocchezza megagalattica. Ma però non ha chiesto le dimissioni della Serracchiani. Veda la violenza con la quale il sindaco di Trieste ha usato. Sì, sì. Ma stava difendendo una donna, che dici? Ma guardi che le violenze verbali. A parte questo, comunque, che è tipico del suo carattere, volevo dirgli anche un'altra cosa. Io dimmi, non so se lei ricorda il 1992, io purtroppo me lo ricordo, quando avevamo il governatore della Banca d'Italia. Vabbè, Campi, maestro Silvia, però che cosa... Presidente perché del ci vuole, Consiglio perché, sì, ma perché ci vuole ricordare il 92, scusi? Per che Soros, ce ne frega? Soros ha fatto crollare la lira italiana, sì, certo, tanto che noi siamo usciti dal serpente monetario. Bene, Silvia. Per cui questo Soros non è quella grande benefattore dell'umanità. Bene, Alessandro da Roma, dai. È Alessandro anche un da benefattore, Roma. Sì, ha fatto Alessandro il suo mestiere di speculatore finanziario, certo. Alessandro non è un da Roma. Ciao. Dimmi. Ciao Davide, ciao Parenzo. Volevo chiedere a David come fa a non essere incazzato nero nel fatto del G7 a Taormina che hanno bloccato tutti gli sbarchi. Bloccheranno. Non li hanno bloccati perché, come è stato detto in questa trasmissione, verranno dirottati in altro cioè loco. Significa che si può fare tutto, sia bloccarli, tutto, sia dirottarli, sia impedirli. Si può fare e non si fa. Mi sembra chiaro. No, dirottarli. È una vergogna quando i capi vanno a toccare. È una vergogna assoluta. È una vergogna. Ha ragione Alessandro, è una vergogna questa. Non c'è nessuna vergogna, ci sono delle, evidentemente. I capoccia vanno a toccare la realtà, allora ecco che si tirano indietro. Questo che cosa ci fa capire? Ci fanno capire che questi sbarchi sono sbagliati? Che cosa vuol no, dire? No, ci fa questo? Capire no, che no, si no, può no, fare no, tutto con la no, volontà no, politica, posso, si può fare viene, tutto, non spostare, viene, non portarli. Travisate, non e giocate, non giocate. Dove sono i Papa, i Ciauchi, i Renzi? Non dicono niente adesso. Non ciao dico Alessandro, niente, Diego tutti da Roma, Diego da Roma, vai Diego. Eccomi. Chi è? Volpe Pasini dalla voce? Eccomi caro. Mamma mia, ecco la Volpe Pasini. Che c'è? La Volpe no, mancava. La Volpe è l'uva. Come dice il buon Capanna quando lui lo allora, per chi non si ricordasse questo personaggio, nome di Diego Volpe Pasini, che è stato assistente di Sgarbi, la moglie si è candidata pure per la Lega, lui è stato anche consigliere comunale. Lui c'ha un logo, adesso farà un partito che si chiama Basta Immigrati, ad esempio. Cioè lui capisce qual è il sentire comune e in base a quello fa il partito. E dico solo il mio lavoro, queste baggianate della politica le segui tu che ti piacciono tanto. Vabbè, ormai adesso non bistrattare la politica, se stavo dietro la politica per tanti anni. Dai, no, non c'è più niente, in questo momento c'è non c'è più niente. Vabbè, Diego, che vuoi? Dimmi. No, voglio dire che, come dice Capanna, Parenzo se n'è andato con la coda fra le gambe. Dove cazzo è la sua candidatura a Padova? Quale coda dove tra le gambe? Dove cazzo è la ma candidatura sindaco di Padova? Ma cosa lui dici? Doveva contrastare Bitonci. Ci ha rotto i coglioni che lui andava a fare. Beh, un po' ha ragione però. Diego Volpe. Beh, però ha ragione da questo punto Diego di vista. Volpe, dai. Bitonci che vince, Davide, e tutte le sale date a gambe. Perché prendere voti, caro mio, è difficile. Io ci ho provato mille volte. E non l'hai mai presi? E non l'hai mai preso, infatti? Sono stato eletto tante volte. Ma dove sei eletto? Ma dove? Con 3.500 elettori. Ma dove sei stato eletto? Ma dove? Ma comunque, vabbè, ragazzi, chi se ne frega? Dai, sta dicendo che te la sei fatta sotto. Giovanni, assolutamente. Io faccio un altro mestiere. Ho minacciato la candidatura attorno a grande consenso. Si è creato grande consenso. Ma quale? Qua. Ecco. Per fortuna che c'è una signorina che ti vuole. Prenditi quella finché sei in tempo. Ma che c'entra questo? Può anche quella. Ma perché? Perché gli devi augurare la separazione? La separazione c'è quella della rosa e dei fiori che si è proposta, no? La prenda finché ancora è un uomo maschietto che gli tira il pisellino, perché tra un po'. Bel linguaggio. Hai visto ieri sera, no? Quello della topa, la topini, i topini che non tira più, sì, ai giovani, eccetera. Ricomparso, ogni tanto ricompaio. Scusami, Volpe, tu sei dotato? Ma figura. A sufficienza per quanto basta. Sì, cioè sopra siamo sotto i 20? Comunque siamo sotto i 20? Sì, credo di sì, 18-19. 18-19, Diego Volpe Pasini. Ma siete dei bambini che lo misurate. 18-19 centimetri, fermi. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scopri la finanza digitale. Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La Zanzara. Ma buonasera, miei piccoli schifosini. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393-71-71-701. Crociani e Parenzo, spiegate a quei barbari che vi telefonano e che vi inondano con quelle oscenità che voi trasmettete non perché stiamo dicendo cose intelligenti, ma perché noi, maggioranza silenziosa, li ascoltiamo ridendo e sorridendo di fronte a un camino, bevendoci un calice di champagne e mangiando ostriche. Scusa Parenzo, tu le ostriche non le mangi, ma noi le mangiamo e pensiamo, ma poveretti. Cruciani, sei stato la mia rovina, sono un insegnante di liceo, ormai ogni volta che do un'insufficienza ai ragazzi gli dico ti abbraccio fortissimo. Comunque ragazzi, tornando alle questioni della politica, solo per qualche secondo, perché so tu che vi annoio. Tu hai corrotto questo paese. No, so che... Cioè, questa gente, questo è un paese che hai rovinato definitivamente, hai contribuito a rovinare con il tuo cinismo, il tuo sarcasmo, il tuo... Guarda, oggi c'è su un giornale, un'intervista a un ladro della Repubblica Ceca, credo che sia Il Tempo, che dice, vengo da voi una volta al mese, rubo e nessuno mi può arrestare. Tempo, sul giornale Il Tempo. Ma lascia, cioè... perché, che cazzo vuoi, no, Del Tempo? Non, capito, non si possono pubblicare cose serie, certo, anche sul Tempo. Meraviglioso, è un'intervista, certo, a un ladro della Repubblica Ceca, non so dove sia presa. Un se ladro fatta... della Repubblica. Un ladro, cioè, il quale dice, vengo da voi una volta al mese, mamma rubo... Mamma mia, che inchiesta pazzesca. Vabbè, un ladro della Repubblica. Le cose Repubblica serie sono solo quelle che dici tu, sono quelle che fai te. Va bene, allora qual è il problema? Non ho capito. Sole 24 ore, il Corriere della Sera. Ma cosa vuol dire? Avanti, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Un ladro della Repubblica. Certo, un ladro che viene qui e ci racconta che ruba e nessuno lo può arrestare. Certo, questa è l'Italia. A questa è ridotta l'Italia. Adesso vado a leggerlo subito. No, vado a leggerlo. No, stavo dicendo che i politici del PD, in questo momento, per esempio Orfini, sono attacco alla democrazia, le intercettazioni. È un'ipocrisia spaventosa. Sì, è un'ipocrisia vergognosa. Siete al governo, cambiate le leggi invece di proclamare queste cose qua, invece di chiacchierare, invece di parlare. Bravo, giusto. Ugo da Napoli. Buonasera. Allora, io passeggio a via Caracciolo. Sì. Napoli, sento l'eco della Zanzara. Sì, sono sul lungomare di Napoli, voi giù, lo conoscete o no? Sì, certo. Come no, spesso mi capita di venire lì, certo. Vabbè, allora sto passeggiando, sto sul lungomare e sento l'eco della Zanzara, perché sto con le cuffiette, ma le macchine vi sento. Ottimo, un cazzo, perché tutti dicono siete due ricchioni. Siete? Due ricchioni. E vabbè, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma guarda che se a me dicono che sono frocio, che sono ricchione, quello che sono finocchio, che sono omosessuale, falsa, okay, ma... non mi interessa, cioè non mi offendo, capito? Immagino questo, perché figurati, lo immagino, però chiaramente, essendo io un vostro ascoltatore, mi sono posto il problema, nel senso, certo, la curiosità di chiedere, ma come mai tutti pensano che questi sono due ricchioni? Vabbè, allora mi sono fermato a fare una chiacchiera, sì, e vi dico che il popolo, che come il popolo, detto prima, sì, tu a una persona, un troll, sì, hai detto ma cazzo mai ci dà il popolo, però insomma, la gente dice che siete due ricchioni che non prendete mai posizione. Sì, no, veramente ho appena preso posizione sulle intercettazioni. Una trasmissione diversa. Le posizioni che prendi tu forse le immaginiamo, ma non so quella che ci piace. Chi se ne frega, comunque, non deve piacere a te, io dico quello che penso, non è che devo piacere a Ugo da Napoli, scusami, mica piace a me, che me ne frutta a me. Però a chi, effettivamente, allora? Poi ho ragionato e mi sono detto, io sento la zanzara da diversi anni, però fondamentalmente se penso a voi, io non mi ricordo mai che avete detto una vostra cosa in maniera netta, una linea chiara. Forse lei ha una capacità cognitiva piuttosto bassa, evidentemente. Ascolta altre radio. No, ma nel senso che rimane alla fine, all'ascoltatore, la emozione che... Cioè, è la mia, poi per l'amor di Dio voi ne fate ciò che volete, però penso che è importante ascoltare anche quello che arriva un'altra persona di quello che fate, no? Va bene, Giovanni, non ho capito niente, Ugo, non ho capito nulla, che cosa vuoi dire, scusa? Da quello che voi dite, da quello che voi fate, l'ascoltatore sovente c'è una confusione, ma fondamentalmente una linea netta, una condanna a determinate cose. Di che cosa? Ma se prendiamo posizione la mattina alla sera, ma non è che abbiamo fatto un inciso su questa cosa del papà di Renzi. Ma ragazzi, ma veramente siamo coglioni, ma è normale che è andata così. Ma cosa è normale? Che sei? Ma che sei arrivato tu? Sei arrivato tu a sputare sentenze? Non ho capito. È arrivato lo sputa sentenze da Napoli. Ugo da Napoli lo sputa sentenze. Avanti, dimmi. Il problema degli immigrati, avanti. Il problema degli immigrati. Ma ragazzi, vi ricordate il problema delle sigarette di contrabbando? Che c'è? Che morirono i finanzieri. Vi spiego una cosa. A Napoli c'è sempre stato questo problema. Negli anni 80, 90. Quando sono morti 2, 3, 4, non mi ricordo adesso quanti finanzieri, lo Stato ha deciso di eliminare il problema del contrabbando. Il problema del contrabbando è eliminato. Sì. Allora, è se uno, ma l'ho detto prima, se uno vuole lo risolve. Bravo. Vabbè, Ugo, ti saluto. Ciao, Riccione. Ciao. Mandiamolo a fare in culo. La zanzara. Che c'è? Sento rumore lì a Roma, che succede? No, perché devo andare un secondo bagno, il solito problemino idraulico. Ci vediamo. Chiamami sul cellulare un attimo. Ma come chiami sul cellulare? Devo chiamare Briatore, rincoglionito. No, chiamalo mentre vado in bagno, dai, che problema c'è, Briatore. Devo chiamarlo al principe di Savoia. Perfetto. Alloggia al principe di lui Savoia. Sta al principe, io sto in bagno, è uguale. Enrico al principe. Dai, e Parenzo. No, vado, chiamami sul cellulare un attimo. Fai squillare, il numero. Posso di Briatore. Ma in bagno o no? Ciao, vai in bagno, che ti devo dire? Se ti scappa, vai, ma non potevi andarci prima, cazzo. Siamo i sindacati, se no. Chiamo la Dina. Aspetta. Buongiorno, sono Maria. Sì, salve, buongiorno. Mi dà la 707, per favore? Sì, mi può dire il nome del cliente? Sì, il signor Briatore, da parte di Cruciani, grazie. Oh, ok, mi fate subito, prego. Pronti? Flavio! Ehi! Come stai? Bene. Senti, ma che sta succedendo in Puglia? Un casino tremendo, vuoi ritirare il marchio, lo hai già ritirato, non vuoi più investire in Puglia, che succede? Ma in Puglia c'è un'indagine in corso, stanno valutando se quello che i miei soci o ex soci hanno fatto in Puglia è corretto, per cui c'è momentaneamente hanno fermato i lavori e c'è un perito che sta valutando se le cose fatte sono in regola o no. Ma mi sembra di capire che tu hai detto che basta, che non dai più il tuo marchio, che non vuoi più investire in Puglia, o sbaglio? Io ho semplicemente dato una licenza e ogni volta che c'è un problema tirano in ballo a me, per cui preferisco ritirarmi, uscire, mi dispiace, ma questa è la realtà. C'è molto poco rispetto per chi investe, no? sì. in qualunque attività. Sì. Il contrario, sembra che dia fastidio quando uno investe in qualche attività. Senti, ma non ti viene voglia dopo questa ennesima vicenda di lasciare completamente tutte le tue attività in Italia? Ti viene voglia di dire basta, sì, sicuramente ti viene voglia di dire devi fare le cose nei paesi e nei posti dove la gente apprezza quando uno fa delle attività. Sì. L'importante è che crea posti di lavoro. Ti viene voglia di lasciare l'Italia? Quello sì. Ma io l'Italia l'ho lasciata da 30 anni. No, vabbè, con le poche attività che hai, diciamo. Se c'è qualcuno che è interessato ad acquistarmi, io sono venditore. Per cui non c'è assolutamente. Cioè, sei pronto a vendere anche le quote che hai nelle altre attività del Twiga, dici? Sì, assolutamente. Se c'è qualcuno interessato, si faccia avanti. Senti una cosa, ma hai letto quella notizia incredibile di Berlusconi che è costretto a dare 2 milioni al mese a sua moglie? A me sembra anche lì una cosa molto esagerata, no? Sì. Mi sembra una roba incredibile. Cioè 2 milioni al mese dopo la separazione, dopo altri soldi dati, eccetera, eccetera. No, perché forse dare 2 milioni al mese c'hai, la moglie diventa più ricca di te, no? Perché vuol dire che dopo 6 mesi c'ha 12 milioni, dopo un anno ne 24, dopo 2 anni ne 48. Dicono che Berlusconi, il motivo è che Berlusconi è uno degli uomini più ricchi del mondo, ma è come dire... Non siccome... è una colpa, no? Ma vedi, il problema è questo, che il matrimonio non deve essere un affare, no? No, ma infatti, tu pensi che sia quello di Berlusconi invece sia stato un affare per lei? Vabbè, sicuramente. E se uno vuole uscire dalla famiglia e il matrimonio finisce, vuol dire che ognuno va per la sua strada. Quando una si sposa o uno si sposa, non deve pensare che il matrimonio è un affare, no? Dico, mi sposo e mi sistemo per tutta la vita, poi mi separo, mi danno una barca di soldi, per cui mi sembra una follia tutto questo. Senti, ma non è che sei preoccupato anche per te, no? No. Non mi voglio fare i cazzi tuoi, però ho letto, sai, io non mi occupo molto di queste cose. Ho letto delle cose su te, su te Elisabetta, che non so se vuoi smentire. No, magari sei preoccupato per te, no? No, non sono preoccupato per me nel modo più assoluto. Non ti separi? No, costerebbe troppo, no, assolutamente. No. Che ne so, leggo di cose incredibili sui giornali, si sta per separare, si sta per lasciare, che ne so. Ogni giorno si leggono delle cose incredibili, non solo su di me, su altre cose, per cui la realtà certe volte è molto diversa da quello che leggiamo. Davide, è arrivato, sai che ci ha chiesto Briatore? Eccoci qua, caro Briatore, intanto fammi fare un encomio di Cruciani, perché intervistare i ricchi è meraviglioso, i poveri sono... Non bisogna più intervistare gente povera. Ma noi solo ricchi. A me i poveri mi mettono di malumore, posso dire, ma credo anche a Briatore. Cioè mi mette proprio anche tristezza. Mi dispiace perché è povero, è triste. Il ricco invece mi fa sorridere. Io quando vedo Briatore collegato nei talk show televisivi dalla sua casa di Monte Carlo, non provo alcuna invidia. Ma dico, cazzo, ma è meraviglioso, guarda come sta, bellissimo. Peccato che non ci sia qualche cameriere che ogni tanto passa dietro. Ma anche a te un po' la povertà ti come dire? Sì, a chiunque, dai, a chi è che piace essere povero, scusa. Ma io mi auguro sempre che chi non ha le possibilità migliori la sua situazione, e che c'è gente che va in pensione dopo anni di lavoro e non ha la possibilità di arrivare a fine mese. Questa è una roba che fa tristezza. Per cui le pensioni dovrebbero essere aumentate, secondo te, a tappeto? Sì, ma vedi, aumenta il costo della vita, diminuiscono le pensioni. Io credo che ci vuole dignità. Una persona. A quanto la metteresti una pensione minima? Facciamo un programma di governo. La pensione minima, a quanto la metteresti te? Pensione minima metterai 1200 euro. 1200 euro. Lo vedi, ma perché non ti candidi, Flavio, prima o poi? Cioè, perché hai paura dei giudici? Perché ti farebbero un mazzo così? Perché ma che non cazzo. Non ho paura di nessuno. Ho paura che quel lavoro lì è un lavoro dove è difficile incidere, sì, e dove per incidere devi fare una rivoluzione. Per cui la politica è tutta una chiacchiera, no? Sì. Una chiacchiera di cose teoriche che non mettono mai in pratica, anche perché non è che le sappiano mettere in pratica, sì, perché poi ci vuole esperienza, ci vuole sapere, è tutta gente che è escluso. Ma Renzi, per esempio, Renzi, che era uno dei più teoricamente uno dei più pratici, ti ha deluso da questo punto di vista? No, ma io credo che Matteo, dopo il referendum, dopo quello che gli è successo, che ha preso un po' di sbarre, credo che ha l'intelligenza per ricominciare, all'intelligenza per poter cambiare anche questo paese qui. È l'unico? Oggi su piazza è l'unico? Io è l'unico, sicuramente giovane, c'ha molta energia, sì, ha una è molto comunicativo. C'è stata una grande polemica nei giorni scorsi, cioè non so come si possa vivere con 1300 euro al mese, ma lo hai detto perché effettivamente, concretamente, vivere oggi con 1300 euro al mese è veramente complicato. Cioè è evidente che tu non potresti vivere con 1300 euro al mese, è evidente che tu sai... io, ma neanche tu e neanche Giuseppe. No, io no, io no, assolutamente. Se tu non hai una casa di proprietà... Sì. E se devi affittare una casa con 1300 euro al mese, c'hai una moglie e un figlio, non riesci ad arrivare al mese. E infatti la gente si indebita. Ma perché la gente si è così incazzata per il fatto che tu hai detto non so come si possa vivere perché con 1300 euro? Ci sono milioni di persone che vivono con 1300 euro al mese e ce la fanno, nel senso che fanno la fame, ma vivono male, ma vivono. Dato che voi due siete, non avete parrozzoliere, ma vi dico una cosa molto semplice. Se tu paghi già un affitto di 300-400 euro al mese, che è proprio un affitto... Ma non esiste. Magari non trovi neanche. E poi devi spendere 200-300 euro al mese per mangiare, sei già a 700-800. Poi se devi avere la macchina, un po' di benzina, la scuola, i bambini, il dottore, l'elettricista... io non penso di aver detto delle cose completamente sbagliate. No, sembra quasi che tu dall'alto, diciamo, del tuo benessere abbia detto: beh, ragazzi, io veramente non riesco a capire come si possa campare con 1300 e invece c'è un sacco di gente che campa. Ma io non capisco perché si incazzano, perché è la verità. Per cui... Tu, per esempio, hai fatto un calcolo di quanto spendi ogni giorno? Di quanto spendi al mese? Mai? No. Cioè, tu i contanti... Io sono molto, guarda che non sono molto più... economico di quello che la scusa. Secondo me i contanti tu in mano non ce l'hai mai, Flavio? No, non c'ho mai una lira. Quando vado in giro sono sempre più o meno la gente che lavora con me che paga. Cioè tu non hai mai il portafoglio? Non ce l'hai il portafoglio? No, non ce l'hai avuto un portafoglio. Questo è un classico. Anch'io, sai che anch'io in realtà non ho mai avuto un portafoglio, però la differenza è che porto i 10 euro, i 20 euro in tasca perché odio il portafoglio. Senti, le ultime cose velocemente. Tu hai detto più volte che molti ragazzi si accontentano, vogliono italiani, vogliono stare vicino alla casa, vicino alla famiglia. Che immagine è questa qua? No, io dico che chi vuole trovare un lavoro lo trova. Nonostante sicuramente non trovi il lavoro ideale, non trovi il lavoro che hai sognato di trovare, però intanto inizi. E poi man mano che vai avanti cerchi. Per cui molte persone non vogliono, molti ragazzi italiani non si accontentano di lavori, diciamo, umili, tra virgolette. No, ma umili, cosa vuol dire umili? Ci sono anche dei lavori manuali, no? Poi con calma vedi di trovare altre possibilità. Tu vai a New York e vedi i ragazzi italiani che fanno 2-3 lavori, poi troveranno la frase. Dunque, tu non ci credi ai dati sulla disoccupazione, questi qua, 40% di giovani, eccetera. Sono tutti... Se uno non vuole lavorare, c'è bene che è disoccupato, no? Senti, quando tu fai un colloquio di lavoro, qual è una domanda strana che fai? Cioè una domanda risolutiva? Cioè una domanda fuori da... lavoro ti dico che lo fanno i miei, io adesso ne faccio molto meno, ma succede sempre che la gente ti chiede, prima cosa che ti chiede quanti giorni di vacanza hai, a che ora inizia, a che ora finisce. Allora per noi quello che il lavoro è già finito. Questo in Italia succede, in Italia questo succede. No, ma arrivano con 2 telefonini e 3 iPad e sembra che non gliene freghi niente, no? Poi c'è quei bravi che invece che gli dicono a me non mi interessa il tempo, non mi interessa qui, non mi interessa dove, voglio lavorare, voglio venire da voi per lavorare. Se tu vuoi lavorare, il lavoro lo trovi. E noi parliamo immigrati. Gli immigrati cosa fanno? Fanno un lavoro che gli italiani rifiutano di farlo. Dunque l'immigrazione serve? Se è controllata, sicuramente fanno dei lavori che gli italiani non farebbero. Il problema è che questi ragazzi qui dovrebbero rimanere nei loro paesi, con degli investimenti fatti ad hoc nei loro paesi, non solo chiacchiere. Per cui secondo te è giusto... Io vivo in Kenya, guarda che quando sono in Kenya la gente è felice. Sì. I bambini quando escono da scuola e fanno un giro tondo attorno a un albero si divertono più dei nostri che hanno mille accessori. Dunque è meglio restare in Kenya, meglio restare in Nigeria che venire in Italia, dici? No, io dico che per certi se scappi dalla guerra o dalla fame, che la stessa roba è diversa. Beh, non è che possiamo accogliere tutti quelli che scappano. Se ci fosse un piano di investimento nei loro paesi e cercare di trattenerli nel loro paese, credo che sarebbero anche più contenti loro. Senti, le ultime due cose. Se uno entra in casa tua, un ladro, tu che fai? Spari? Hai una pistola? Sei armato? No, non sono armato, ma ho visto che in Italia dipende a che ora tu arrivi, no? Sì, c'è questo dibattito un po'. Perché se tu arrivi alle 4 del pomeriggio d'inverno, che è buio, puoi sparare. Se arrivi alle 4 del pomeriggio d'estate, no, perché c'è la luce. Hanno tirato fuori una roba che fa ridere, no? Sì, no, questa sull'orario fa ridere. Sull'orario fa... Non sono riusciti a fare una legge in Parlamento dopo anni di dibattiti, una legge seria in Parlamento, una cosa patetica, dai. Cioè, la cosa che non capisci, sti qui come fanno anche... come non si vergognano quando tirano fuori una roba del genere. No, ma infatti è da vergognarsi, soprattutto dopo anni di dibattiti, anni di dibattiti e di discussioni in Parlamento, sulle televisioni, sulla legittima difesa, la prima cosa che fanno è una legge sbagliata. Lo stesso Renzi dice no, è sbagliata, bisogna rifarla. Dai, ragazzi. Capito, ma i suoi l'hanno votata. Ma ho capito, ma è una cosa ridicola, chi la osserva dall'esterno? No, ma ragazzi, il problema è che sono scarsi. Sì, sono scarsi. I politici di oggi sono scarsi, dai, sono scarsi. Però Renzi un domani, qualora abbandonasse la politica, lo prenderesti, secondo me, a lavorare nelle tue aziende. Cioè Renzi lo trovi talentuoso, potrebbe essere un buon manager. Renzi sì, io Renzi... Guardi, io nella politica italiana prenderei due persone. Chi? Prenderei Berlusconi e prenderei Renzi. Sono gli unici due che... Beh, Berlusconi diciamo è un po' datato. Cosa eh? Gli faresti fare? Niente, ma no, va bene. Va bene pure Berlusconi. Benissimo. Va bene Flavio, un abbraccio, a presto. Ciao Flavio. Flavio, ciao. Ciao, Giuseppe. Ciao, ciao, ciao caro, ciao compagno. C'è tutto il tempo al cesso. Tutto il tempo al cesso. Oh! Ehi! Tutto il tempo al cesso! E che devo fare? Non volevo tirare lo sciacquone. E che fai adesso? Lo tiri, non ho capito. Non volevo tirare lo sciacquone davanti al apriatore. Sembrava in... Beh, tiralo almeno, no? Cioè, tiralo almeno, chiudiamo. Ma non qui al sole 24 ore. Aspetta, manco lo sciacquone funziona, non ho capito. È una roba incredibile. Tira là, non lasciare tutta la merda. Ma no, ma no. Ma stai lasciando tutta la merda, una cosa incredibile. Fermo. Ma vai a cagare. Tutta la merda lì. Intervenite. Pulite i cessi. E questo è stato 10 minuti a pisciare e cagare mentre intervistava Briatore. Ma fa culo, va. Ma sei inelegante. Dai. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. No, che c'hai il cuore troppo vicino al buco del culo perché sei un nano, questo è risaputo, che sei cattivo, però sei solamente cattivo con i poveracci che telefonano, che no, che tu attacchi, che non lasci parlare con la tua arroganza, con i tuoi modi di fare. Io vorrei vedere quando te li trovi davanti, quelli che tu dici venite qui fascistelli, conigli, poi vediamo. Giovanni da Udine, andiamo avanti con gli ascoltatori. Vai Giovanni, vai. Così, buonasera. Vai, Parenzo è rientrato in studio dopo la caccia. Sì. Adesso quello che ho fatto. Vorrei parlare con Parenzo. Rimane nel privato. Ma vai Giovanni, perché, dimmi. Parenzo si attiene sempre alla legge. Viva la legge, bisogna rispettare la legge. Sì. Tempo fa avete attaccato il povero Don Mario Fangio. Vi ricordate quello che ha suonato le campane a morto per l'eutanasia? Beh, certo, per quello che vuole decidere sulla nostra vita. Cioè, uno è un prete che voleva decidere sulla nostra vita, sul fatto che noi possiamo ammazzarci quando vogliamo. Semplicemente per porre fine alle sofferenze. No, Giuseppe, ma volevo dire a Parenzo, siccome lui rispetta sempre la legge, ma che c'entra questo? Per la... No, c'entra perché lui ha detto: io posso tagliarmi la mano in questo momento? Non può farlo, perché se noi ci facciamo del male da soli, arriva il camice bianco che ama tanto Parenzo e ti rinchiudi in un centro di salute mentale. Non abbiamo capito nulla. Ti puoi spiegare meglio? Nel senso che non possiamo fare quello che vogliamo del nostro corpo. Sì, ma che vuol dire? Legge. Dai Giovanni, scusami, dai. No. Ma è vero, un discorso legato al suicidio, dai, su, è un discorso legato, scusami, alla fine vita, alla sofferenza, al porre fine a una sofferenza di un corpo che ormai è andato. Dai Giovanni, non mi rompere le balle, che cosa vuoi dire? Che Parenzo diceva che può fare quello che vuole col suo corpo e non è vero. Certo. Nello spot che ho fatto. Vabbè, a favore ciao, Alessandro D'Arezzo, certo. Dai, forza, Alessandro D'Arezzo. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Parenzo, vorrei che finalmente Parenzo facesse le scuse al caso Zuccaro, perché sono settimane... Non si sente, Pietro dalla provincia di Vicenza, vai. Nessuna scusa. Pietro, nessuna scusa a nessuno. Ma stiamo scherzando. Pietro, provincia di Vicenza. Non molliamo mai, sì, non molliamo di un centimetro, non molliamo. Altro dimmi, che... Pietro, dimmi. Pronto, mi sentite? Sì, dimmi. Sì. Ah, niente, niente, volevo dire, prima cosa, forza Briatore al 100%. Vabbè, poi? Poi, io volevo ritornare ieri sera, però siete andati lunghi per il discorso dell'Africa del Nord, dei musulmani, della religione. Pietro, io... vuoi andare al punto? Sì, 30 allora, secondi allora, che sei collegato, spiego. Ancora non hai detto allora, un cazzo, dai. Allora, esatto. Io è dal 92 che lavoro con l'Africa del Nord e lavoro con i musulmani dalla mattina alla sera e degli arabi. Sì. Sono un ammasso di persone, non tutte, ma la maggior parte, di approssimativi e non arrivano mai da nessuna parte. E quindi è inutile che noi stiamo qua a fare i Ma che vuol i vari... dire? Con chi lavori? Con chi hai lavorato? No, io con aziende mie in Tunisia, allora? In Marocco e in Egitto. Allora vi dico che qua vengono fa e fanno quel cazzo che vogliono, là da loro non possono fare niente perché li mettono in galera. E qua invece fanno tutto quello che vogliono. Non va bene questo. Noi siamo troppo buonisti. Non va bene, troppo buonisti. Non va bene, siamo troppo buonisti. Ma che vuol dire che fanno quello che vogliono qui? Qui vengono qua e vogliono le moschee, vogliono tu prova ad andare a fare un capitello 10 centimetri per 10 in quei paesi là, cosa che fine fai? Che fine fai? Tu per non avere problemi là devi parlare solo di gnocca e di sport. Vuoi parlare di religione o di politica? Ti mettono via. Ti mettono via in tre secondi. Cioè, non ho capito, questo è interessante. Tu vai là, puoi parlare solamente di figa e di... E di calcio, di quello che è, non c'entra un cazzo con quello che è la politica e la religione. Vabbè, questo... ti mettono via. È dal 92 che sono là. Ho mangiato 7 passaporti dietro avanti dalla Tunisia e dal Marocco. Quindi è questo. Allora, loro parlano tanto. Sono signori che sono laureati alla Sorbonne, vengono qui in Italia, li fanno di tutti i colori, giusto? Puttane, mangiano maiale, bevono champagne, ritornano di là e rabbaltano completamente. Poi è vero, dove l'hai trovato sto ubriacone? Dove salta fuori sto ubriacone? No, è un ubriacone che lavora e fa 2 miliardi all'anno di fatturato, coglione, che non sei altro. Hai aggressivo capito? Anche. Aggressivo. È tu che non sai neanche, tu sai, aggressivo. Sei laureato. Aggressivo studiato, patologico. Ma la tua intelligenza, no, non è laureato. Aggressivo patologico. È un'altra cosa. Lei è aggressivo patologico. Lei è un aggressivo. Tu hai l'intelligenza sotto il culo, sei un chiacchierone, no, che non è capace lei è aggressivo. Di accendere e spegnere lei... un'azienda. Parli solo e butti fuori lei... l'Italia, lei coglione. Lei è aggressivo, aggressivo patologico. Ma non mi interessa anche. Se vieni vicino a me, sì, ti anche una granata sulla testa. Eccola, una granata. Perché aggressivo, meriti questo, Cruciani. Aggressivo tu, Pietro, patologico. Pietro, tu Pietro. Sei una grandissima, brava persona. Amico mio, tu pensa che ti ha distrutto. Qual è la tua cosa? Fuori dai coglioni, qual è la... lì, sì, no, ma ha ragione su questo. Pietro, qual è la tua occupazione? Sì. Cioè, qual è la tua impresa? Cioè, cosa fai? Io sono un finanziatore e ho aziende di abbigliamento. Ok, ma 2 miliardi erano di vecchie lire, 2 miliardi, non 2 miliardi. No, di euro, lo bene, capisci cosa vuol dire 4... euro? Sì, lo capisco ottimo, che vuol dire, ma qua allora, sei, quando che questo coglione che hai vicino è capace di accendere e spegnere un'azienda, con può chi parlare, parla questo? Se no deve stare con zitto, chi che fa solo becera politica del cazzo. Scusami Pietro, Pietro, spiegami una cosa, tu fatturi 2 miliardi di euro? Sì. Tu, personalmente, sì, cazzo, sei un... Sì, la mia azienda, i miei soci, io e i miei soci. Sì. Ma mi sembra stato 2 miliardi di euro in tutto, mi sembra mi sembra tantino, 2 beh, miliardi. Ti do il numero di telefono. No, e per carità, va benissimo, no? Ci allora, credo... quando io sento parlare quel deficiente lì che hai vicino, scusami il termine, signora, quello è un deficiente, e anche delle mie parti, perché io sono di Vicenza, lui è di Padova. Ma questo aggressivo patologico, con chi ce l'ha questo aggressivo, qua? Tu sei un coglione, sì, tu sei dato sotto un cavolo matto, e stai buttando fuori solo di Zania. Scusami Pietro, ma tu hai degli impiegati, molto bene, hai degli impiegati musulmani, extracomunitari, islamici, sì, africani? Tutto, ho maestranze italiane, sì, e poi ho maestranze anche musulmane, e sono dei bravi ragazzi anche là, come ci sono delle brave donne, ma nella società, ti faccio un esempio solamente, sì, fammi un esempio, sì. Asola, tu passi la mattina sui paesi non lungo il mare ma all'interno, sì, giusto? Sì. E vedi 100, 200, 300 persone fuori dal bravo, bar, sì, lo... chiaro? Sì. Che non senti, bevono, vanno avanti, senti, a te grandi racconti, senti a quello che i grandi racconti del cuore del nord-est, dici, collegato Pietro da Vicenza, parlare coglione, allora tu dici perché racconti. Questi sono là? Perché hanno scelto, sentilo, così, sentilo. Ti rispondono, hanno scelto così, senti. Ma come cazzo hanno scelto ecco così? Ecco come parla, sentilo, i grandi. Ma perché? Parla normale. Il ma che vuol dire che stanno come mangiano, come tu che ti cagli addosso, hai capito, coglione, che stai rovinando i ragazzi, che stai facendo ancora lotta di classe del 2017 tra fascisti e comunisti, che sono passati lotta 70 anni, coglione. Straordinaria. Ah, scusami, sei un coglione, e se ti vedo ti do anche una granata sulla testa con violenza, le mie cinque dita, con le mie cinque dita, sia convergere immediatamente della fabbrica di tal Pietro da Vicenza, immediatamente, immediatamente, per cortesia. Scusami, Pietro, scusa, le tasse questo qua o no? Le paga le tasse, penso che le paga, no, le so, tasse. Io chiedo. Anche troppo pago per te, e non per no, per me, che lui le paga, tu non le meriti neanche, io le pago le tasse, 43% di tassazione, cioè io altro che non sei altro del cazzo. Compagni e compagni, per cortesia, convergere dall'Umbria verso Pietro da Vicenza e occupare la fabbrica immediatamente. Sei solo un chiacchierone e basta. Pietro, scusami, Pietro. E si trova a palo, Dio che ti stendo. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Anche bestemmiato sto qua. In un intercalare anche bestemmiato. Hai bestemmiato, Pietro. Ma vaffanculo, te le bestemmi e metti a prendere queste cose qua. Si è qualificato per quello che è. Ha pure bestemmiato sto schifoso. No, Pietro. Ha pure bestemmiato sto schifoso. Hai capito, mo? Sto schifoso qua, pure bestemmiato sto schifoso. Chieda scusa. In tutto questo si inserisce Mauro da Mantova. Maurone! Ma Maurone, che mi dici? Come mai? Quali nuove? Quali allora, nuove porte? Quali nuove porti, Mauro? Dimmi. Fai sapere all'emerito signor Pietro, sì, che amo dopo la Lores di Tiene, sì, che amo, che il coglione che hai a fianco non è laureato perché non è capace di prendere una laurea. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? È un emerito. Chi se ne frega, però? Mauro. Ha parlato il professore delle Nane. Me ne frego perché lui si spacca per il giornalista e non può essere. Ma che c'entra? No, non tutti i giornalisti sono laureati, dai. Ascolta, lui non è giornalista. Vabbè, ma chi non è laureato? E non può iscriversi all'albo. Spiegaglielo, però, che ho fatto l'esame di Stato. Non c'entra niente. Spiegaglielo. Anche se sei raccomandato, coglione. Ma spiega che per quanto che conto ho fatto un esame di Stato. Tu sei un giornalista. Ho fatto un esame di Stato, imbecille. Tu sei un emerito cretino. Ma imbecille. Per fare figura di merda. Vabbè, Mauro, anche con la Le Pen hai fatto una merda figura di merda. Ma, sì, ma qual adesso? È adesso il punto? Cioè, perché c'è? Allora, dimmi. Parliamo ma di questa banca, è una diffamazione continua questa trasmissione, proprio. Si chiama diffamazione continua questa trasmissione. Parla di banche etruriche, che vuoi dire? Allora, argomento nuovo, finalmente. La signora rispettabilissima Mariella Boschi, che va sull'aereo da 110 milioni di euro. Ma chi? La Boschi va sull'aereo da 110 milioni di euro. Ma qual perché è se tu non lo sai, ce l'è fatta Bonaccini, ce l'è fatta Righetti. Basta, Mauro, ma non si può! Ma dai, ma non si può parlare così. Io dai, spero che su lo quereino veramente stavolta. Ma dai, Mauro! Tu conosci suo cugino? A me non me ne frega niente, Mauro. No, non puoi parlare così della Boschi, di queste cose qua. Dai, su. Vergognati. Dai. Ma non parlare della Boschi, ma chi se ne frega con chi è stato e con chi non è stata? Dai. Intercettazione padre e figlio Renzi. Scusa, domanda: chi era il regista? Francis Ford Coppola, Sorrentino o un altro? Tu pensi che sia stato una... Ascolta, ma lo capisco, un bambino di 5 anni ubriaco. Ma Cruciani, ma è stata architettato ad hoc. Mauro, dalle certezze di Mauro da Mantova. Ma no, lui non sa che intercettato. Senti, però, Mauro, perché vai a rompere i coglioni ogni giorno? Mi stanno chiamando dal comune di Pesaro che vai a rompere il cazzo. Ogni giorno chiami quei poveracci. La settimana scorsa, oddio, mettevo su Rai 3. C'era sto coglione di Ricci. Ma non hai niente da fare dalla mattina alla sera che chiamare il comune di Pesaro. Ascolta, passi tutto il giorno davanti alla televisione, dai. Sentimi bene. Tu sei Napalm, sei come Napalm, sei come Napalm 51. Tu sei come Napalm 51, uguale. Prima che quel bastardo di Napolitano, molti Prodi e Benedetti, insuccessero come in Italia, io in 4 settimane facevo 4.000 al mese. Sì, ma non ho capito. La colpa che fatto è il fatto che non hai lavoro di chi è? Di Prodi, Napolitano, dei Benedetti e molti. È un imbecille. Bello, forse tu ti sei perso dei passaggi. Ma che tu c'entra col fatto che non hai lavoro? Che c'entra? Sei un imbecille. Bello! dal 2009-2010 allora... le assicurazioni non pagano più. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero. Ascolta, potrò sapere 40 anni che faccio da vincitore. Prima l'assicurazione pagava la tariffa. Sei disoccupato, sei disoccupato perché nessuno ti dà lavoro. Ascolta, se mi fai finire, beh. Eh no, perché tu queste cose non le sai. Ma che perché c'entra sei... Monti con fatto che... Ma sei nel settore! Che ma sei nel settore! Perché lo fai ringhiare con un chihuahua? Lui è un chihuahua. Hanno fatto... Sai quei chihuahua? Perché i cani grossi... Mi stai dicendo che la colpa del fatto che tu non hai lavoro è di De Benedetti? Ma cosa... Beh, lui è uno di quelli che ha contribuito. Ascolta, dai, la colpa di chi è? Ascolta, se mi fai fare il discorso, le assicurazioni hanno fatto, hanno decretato delle carrozzerie. Ma le carrozzerie, amico mio, le carrozzerie, hanno decretato delle carrozzerie. Se ne frega delle carrozzerie, vuoi capirlo o no? Se tu vai da De Benedetti e gli dici le carrozzerie, non sai neanche cos'è una carrozzeria, perché c'ha 50.000 persone che gli aggiustano la macchina con l'autista. Ma non sa, se ne frega delle carrozzerie, De Benedetti, se ne frega, stupido. Cosa gliene frega? Ma secondo te, ma De Benedetti, ma secondo te se ne interessa delle carrozzerie, De Benedetti? Ma dai, stupido! Ma sei stupido, sei le carrozzerie! De Benedetti le carrozzerie! Ma non sei neanche mai. Non c'è mai entrato neanche per sbaglio in una carrozzeria, De Benedetti! Stupido, sei stupido! Sei uno sciocco! Sciocco! Ti metti una mano di legnate! Sciocco! Ma perché sei? Sei uno sciocco! Sciocco! Ma perché lo devi menare? Non ho capito! Perché non devi essere menato? Per quale le volte che hai insultato sciocco. Mio padre e mia madre, quelle imbecille. Vabbè, ma quelle due perché ma fossero andati al cinema quella sera, guarda, che non c'era, l'aborto all'epoca ancora. Non c'era l'aborto purtroppo all'epoca. Mamma mia, ci voleva l'aborto all'epoca. Altro che, o la pillola del giorno dopo, nel tuo caso. La pillola del giorno dopo ci voleva nel tuo caso. Fermo, fermo. L'auto, come si chiama? Le officine meccaniche. Ma il meccanico, ma chi se ne frega del meccanico? Del Benedetti, del meccanico? Stupido. Fermi tutti, fermi tutti. Vai, vai. Vattene, Satana, vattene, Asmodeo. Asmodeo. Venti di Parenzo. Sei Asmodeo, sei la zanzara. Pom pom pom pom pom pom pom. Oh bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu squirti. La zanzara. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacco i coglioni, hai capito? Senti Parenzo, tu che tanto ti lamenti delle puzze di Cruciani quando vai a dormire a casa sua, sappi che sono disposta a fare scambio con te. Beh, questa è una buona notizia, eh? Questa è una ottima notizia, è un'ottima notizia. Si infiamma la puntata, si infiamma. Guarda che io ti chiamo quella che ti vuole scopare, eh? No, guarda che ti chiamo quella che ti vuole scopare. Non usare queste parole. Beh, ti vuole fortissimamente, ti vuole. Cara Natania, potrebbe esserci una sorpresa nelle prossime ore. Ci potrebbe essere una sorpresa. Però ragazzi, noi vogliamo provare a chiamare un signore. Sentiamo, c'è la casa di un signore. La casa di un signore. Vi riepilogo. È una trasmissione incredibile questa qui, perché effettivamente può sempre succedere di tutto. No. Cioè, nei normali talk show non è così. Allora, che però può ti succedere ripeto, qui, di qui, tutto. Qui sì. Vicino a Milano c'è un paese che si chiama Buccinasco, sì. Il quale è frequentato, come sapete, dall'Andrangheta. Sì, cioè, molto frequentato. Per tanti anni, anche adesso è frequentato. Ecco, diciamolo chiaramente, così ci inimichiamo definitivamente anche Buccinasco. No, ma signori di Buccinasco. È chiaro che è così, infiltrazioni, molto, eccetera. Molto mafioso, molto. Allora, mafioso. Pochi giorni fa è uscito dal carcere di Secondigliano ed è tornato a Buccinasco, sì, un signore, sì, che si chiama Rocco Papalia. Vale la pena chiamarlo, dici ultra tu, no? Ultra sessantenne. Sì. Lo abbiamo già detto, sono andati a fare la comunione di una delle nipoti, lui è in sorveglianza, gli hanno dato un permesso. Gli hanno dato, Papalia. Esatto, gli hanno dato diciamo bene il nome, così si arrabbiano definitivamente. Rocco Papalia. Signor Papalia. Ha fatto circa 25 anni di galera, ma in realtà è stato condannato a oltre 120 anni. Pensa ora, te. Questo paese, in altri posti, prendevano la chiave, chiudevano e buttavano la chiave. Diciamola chiaramente. Qui in realtà. Perché io so che i Papalia ascoltano molto la Zanzara. No, non cominciare. Diciamolo chiaramente. Allora, questo signor Papalia. Ora, Papalia. Io provo a chiamare perché voglio capire, ecco, siccome poi hanno aggredito i giornalisti fuori dalla insomma, hanno preso a male parole, insultato i giornalisti che si avvicinavano a fare le foto, a chiedere a signor Papalia dove 25. Stiamo parlando di che cosa? Di 'Ndrangheta, no? Di 'Ndrangheta, chiariamolo. Allora, stiamo per chiamare un signore condannato a 100 anni, sì, uscito di galera sotto permesso di sorveglianza, che si chiama Papalia. Ma diciamolo con tranquillità, perché secondo me la cosa che stiamo facendo non è per nulla pericolosa. In realtà credo che questo numero di telefono sia della moglie. Sia della moglie. Disturbiamo anche la moglie. Perfetto. Quello sono molto sensibili sul tema della famiglia. Pronto? Sì? Buonasera, signora Adriana? Sì? Salve, buonasera. Qui Radio 24, salve. Buongiorno, mi dica. Buonasera. Volevo capire perché, che cosa è successo l'altro giorno con i giornalisti? Perché... Lei chi è, scusi? No. Radio 24? Radio 24, sì, buonasera. Parenzo, buonasera. Parenzo. Un attimo, allora, aspetti un attimo. No, scusi. Radio 24, cosa è successo con i giornalisti l'altro giorno? Parla. Pronto? Sì, ecco. Buonasera, con chi parlo? Sono Rocco Papalia. Ah, signor Rocco, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera, che è successo l'altro giorno con i giornalisti? Che è successo con i giornalisti l'altro giorno? No, niente, è successo mi scusa l'espressione, sono rompe... Se rompe i coglioni, dice lei, no? Ecco. Ma bravo, perché non è che vedono, è già da 10 giorni che sono a casa, sempre da qui uno non può mettere testa fuori, fotografare che viene per bambini, non bambini, è una cosa schifosa, comunque... No, però signor Rocco, scusi, c'era anche curiosità, no? Lei è uscito dal carcere, è normale che i giornalisti vadano lì a... Certo. Vabbè, è normale che qui che è normale, io glielo ho detto, senti, se io ho commesso qualcosa... Sì, pagata. Sì. Adesso voglio lasciarmi stare a godermi la vita, quella questo che mi è rimasto. Ma lei ha detto anche siete dei cani a un certo punto. Ma sa, quando uno ti prova, quando ti dice va via, che sono poi in una certa giornata, poi uno a un certo punto per dà pazienza, no? No, però scusi, signor Rocco, io capisco che lei non è stato in carcere, adesso è uscito, per carità, in sorveglianza, quello che vuole. Però lì andavano lì a fare le foto. Lei non voleva rotture di scatole proprio intorno a sé. Certo, non vuole, basta quello che ho avuto. Quello che ho passato. Quanti anni di galera ha fatto lei in tutto? Perché lei non lo sa quanto ne ha fatti. No, non lo so quanti ne ho fatti. 26, quanti ne ha fatti? 25, 26, quanti ne ha fatti? Ne ho fatto 25, 26, adesso non lo so di preciso. Ma come non lo sa di preciso? Vabbè, non ho niente da dire, neanche a lei. Ormai, scusa un attimo, prego solo di lasciarmi in pace. No, solo... quanti anni di galera ha fatto? Questo ho si può dire? 25, basta. Io la cosa che voglio dire è questa. Ci può dire una sola cosa? Che l'Ndrangheta fa schifo? Eh sì, questo va detto. Cioè, ecco, a posto, sistemato boss, tutto. Boss. Allora ricordiamo che Cruciani sta a Milano, che non è troppo lontano da Bucinasco. Sì, è vero. E io saltuariamente vengo a Milano. Certo, non verrò a Bucinasco nei prossimi mesi. Caro Papalia, la prego. Abbia pietà di noi. No, dai. Abbia pietà di noi. Nessuno. Ragazzi, ma questo qua è stato un boss della 'Ndrangheta da 120 anni, a me che cazzo me ne frega. Però risponde al telefono. A me non me ne frega. Risponde al telefono. La cosa che mi fa manda ai matti è che lui dice: mi hanno disturbato. Disturbato. Ma con quello che ha fatto lei, i giornalisti l'hanno disturbato. Papalia, mi manda ai matti adesso. Non voglio essere irrispettoso rispetto al boss Papalia. Ma se lei dice, come ci ha detto, mi mandano ai matti. Ma come ai matti? I giornalisti, ma lei ha 100 anni, è stato condannato di assassini, rapimenti, droga, qualsiasi cosa. Ma hanno disturbato. Ma come disturbato? Ma lei che ha fatto, scusi, per essere condannato a 100 anni di galera, caspiterina. Voglio bona. Godermi la vita. Ma ho capito, ma qualcuno fa delle domande e lei è... Ma hanno disturbato. Allora, io voglio dire una cosa. Io vado a correre spesso a Buccinasco, su Naviglio. Bravo, bravo. Dalla bravo. Parte opposta a Buccinasco. Ho tanti sì. amici a Buccinasco. Cambia, vai a Buccinasco. No, adesso. Io dico, i signori Papalia sono anche proprietari di un bar sì. che io vedo sempre quando ecco, vado a correre. Ecco, vai lì a prendere il caffè, naturalmente. Ma non ci penso col cazzo che ci vado. Comunque a me non me ne frega un cazzo, capisci? Cioè, a me di quello che possono fare i Papalia non me ne frega niente. Io volevo fare delle domande al signor sì, Papalia. Sì, no, ma infatti. Volevamo fare che... delle domande. Anzi, io inizierò una serie che si chiama Vita a Buccinasco. Vita a Buccinasco. La vita personaggi di Buccinasco, nessuno sì. l'ha mai fatto seriamente. No, no, no. Questa è la prima puntata. Avete sentito la voce del boss? Per la prima volta avete sentito la voce del boss. Purtroppo poi ha chiuso il telefono quando siamo arrivati al dunque. E su quella domandina allora, lì la voce del boss. Prima puntata Vita a Buccinasco. Vabbè, poi la chiameremo in un altro modo, così mi è venuto così. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica. Col napalm. Fiamme nel campo rom. Napalm. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Napalm. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scopri la finanza digitale Rimini, IT Forum 18 e 19 maggio. La Zanzara. Cruciani, sei un grande. Ieri hai preso per il culo tutto il tempo lo studente di scienze politiche di Pisa dicendo che fa l'università dello scherzo e che sarà un futuro disoccupato. E poi anche te sei laureato in scienze politiche alla Sapienza. Grande Cruciani. Alle donne devono essere regalati i fiori, vanno portate a teatro, vanno corteggiate e dopo si schierano. Parenzo, quando vuoi. Mamma mia, guarda, ma veramente mi arrapa questa qua da morire. Cioè, veramente ti invidio di questo. Cioè, questa voce, veramente te la invidio. Te la invidio questa voce, è una voce spettacolare, è una voce spettacolare. Allora, mi segnalano che un carabiniere che conosco. Un carabiniere che conosco mi dice: l'ultima condanna a Rocco Papalia gliel'ho fatta prendere io nel 2015 per un omicidio del 76. Capito? Signor Rocco Papalia. Quello che abbiamo sentito prima, signor Rocco Papalia, sì. Mauro da Prato, vai, Mauro, vai. Pronto? Mauro, sì, non sei Mauro da Mantova di nuovo, no? No, basta, no. Volevo dire a Parenzo che non è coerente. Perché Parenzo amico dei Rom, Parenzo no, per amico dei Rom. Sì, vabbè, amico allora, Rom è un modo di dire, amico Rom, dopo, sono contro le discriminazioni. Poi dopo al telefono con Briatore dice che ti dà fastidio intervistare i poveri perché ti mettono tristezza. Ma era ironico, ma era esattamente no, però è vero che ti mettono tristezza i poveri, questo l'hai detto, i poveri. No, era una battuta, lo dicevo per paradosso, ovviamente. Allora, se era una battuta. Lo dicevo come battuta per paradosso, tant'è che alla fine l'ho chiamato compagno Briatore per quello che ha detto. A parte che i Rom non sono poveri. Poveri, primo. Esatto, e comunque primo, in ogni caso ti mettono. È vero che ti mettono tristezza i poveri, tu me lo dici sempre. No, a me i poveri mai, mi mettono tristezza. Beh, la tristezza allora, è evidente che c'è una tristezza nella povertà. No, sei ma tu ti che mettono proprio tristezza. Tristezza. Tu non li sopporti i poveri in realtà. No, ma adesso sono mica li tieni a distanza. Li tieni a... Ti dico, ma che è a distanza? Ti pulisci le mani quando dai la mancia a qualcuno, ti pulisci le mani. Come ha fatto il presidente francese Macron quando è andato in fabbrica. Hai presente Hollande cosa disse? No, come li chiamava? Gli sdentati. Sì, a te ti danno fastidio. No, a te danno un fastidio, ti mette tristezza la povertà. Ma perché ha ragione Mauro. Anna Maria Gorizia. Non diciamo stupidaggini. Anna Maria Gorizia, vai. Ah, sì, sono qua, buonasera. Ecco, dimmi, lei squirta, signora? Buonasera, Cruciani, ecco, buonasera. Esatto, lei squirta? Io? Prego? Lei squirta? Prego? Come, lei? Lei squirta ogni tanto? Niente, signora, lasci fare, non No, si no, ascolti. Beh, no, lei che voi che sapete tutto. No, non sappiamo un cazzo. Signora Anna Maria da Gorizia. Allora rispondetemi a questa domanda. Forza. Dica. Anna Maria, forza. Che male abbiamo fatto noi poveri ascoltatori, sì, per subirci un elemento come Parenzo? Oh, questa, vabbè, è una buona, questa è una buona domanda, una domanda interessante. Oh, ascolta, però io ribadisco, una buona risposta. Però sì, lei continua ad ascoltare. Io ribadisco, lei sa. No, guardi, io sono un'affezionata di Radio 24. Ottimo. Però non ascolto più alle 18:30. Oggi per caso ho aperto. Ah, per caso. E c'era questo Parenzo che sono io, non finiva più di parlare. Ho preso il telefono d'istinto. E ha telefonato. Beh, questa è una vittoria. È una vittoria. E ha detto: ma che male abbiamo fatto noi? Scriva anche una lettera, però. Cretino. Posso consigliarle, signora, di prendere carta, penna e calamaio, perché lei il computer non ce l'ha. Carta, penna e calamaio. Carta, penna e calamaio. E scriva all'aspettabile redazione di Radio 24, dove mette giù tutte queste lamentele nero su bianco, cara Anna Maria. Guardi, io sono felice che una signora come lei redazione. Non mi vuole ascoltare. Io sono orgoglioso. Che non la sta a sentire. No, non mi sta a sentire. Non la signora. Sta a sentire. Signora, siamo noi poveri qua che dobbiamo sentirla. Scusi, signora, lei purtroppo. Scusi, signora, mi dispiace per Parenzo, per Cruciani. Scusi, signora, ha distrutto Cruciani in due minuti. Perde delle persone del pubblico, che lo scusi, signora, perché signora Anna Maria da Gorizia, dica, perché lei non spara, prende, signora, la pistola, vota la Lega, mi dica un attimo, signora. Ma scusi, lei è un maleducato. Stiamo parlando con Cruciani. No, con Cruciani non si vede. Scusi, no, signora, lei vota la Lega? Ma signora Anna Maria, vota la Lega? Lei mi prenderebbe un paio di immigrati a casa sua? Ma figurati. Ma guardi, ne abbiamo tantissimi qua. Le prenda uno a casa. Non è questo il problema. Volevo solo che lei mi risponda, perché dobbiamo assorbirci. Vabbè, signora, è una tassa. Se vuole, perché se vogliamo. Sì. Ecco, perché la radio ce la apriamo, perché è lì. Se vogliamo un cretino, così andiamo al cinema a vedere le comiche. E vai al cinema, che è meglio così. Ma questo è gratis, però, cara Anna Maria. Sta roba qua è tutta gratis. Al cinema è lei paga. Gratis, non capito, è vero, signora Anna Maria da Gorizia. L'abbonamento alla televisione. Cara nonnina della Lega. La radio è Radio Rai, non noi. Cara nonnina della Lega, capito, cara signora? Ma lasci perdere. Ma è sicuramente della Lega, niente. Lei. Ma lasci perdere, lei. È sicuramente della Lega, lei, signora. Ma lei è sicuramente della Lega. Io sarò stupido, ma lei è della Lega. Educato. E lei è della Lega, signora. Ma lei è della Lega. Perdere. Ma non lascio non perdere. Lei chi vota, signora? Chi vota, signora? Chi vota lei, questi cara? Sono affari miei. Non ci rompi i coglioni, scusi. Risponda alla domanda. Perché dobbiamo sentire. Ma quello già glielo ho detto, è qui, punto e basta. Arrivederci, grazie, ciao. Saluti, cara. Allora ragazzi, dopo un sacco di tempo, il ritorno della signora Nike Rivelli qui alla Zanzara. Buonasera signora. Come andiamo? Signora figlia di Ornella Muti, come andiamo? Chi è la figlia di Ornella Muti? Lei. Ah, è vero, davvero? Se fino a prova contraria sì. Però è una cosa che ho detto come seconda cosa, non è che è la figlia di Ornella Muti. E se io fossi Ornella Muti adesso invece? Sì, potrebbe anche essere, ma non credo che sia. Perché allora forse cambierebbe il vostro modo di parlare. Assolutamente no. No, assolutamente. Uguale identico. Vabbè. Cara Nike, come stai? Come ti abbraccio, sempre questa voce bellissima. Sta benissimo, come state voi? Non bene, c'è male, cara. Non però c'è male. Mi stupisce che lei si fa sempre fotografare, signora Rivelli. Perché lei? Perché mi dai lei? Ma così, lei, per un modo di dire, lei. Comunque, perché ti fai sempre fotografare nuda? Ecco, questo è il punto. Mi politico. Faccio fotografare nuda. Sì, perché esponi le tue grazie. Sempre. Devo dire che ne vale la pena, perché no, hai un fisico da paura. Ognuno ma qual è il dietro la cosa? Perché pubblichi sempre delle foto nude? Sempre. Perché? Allora, intanto ormai io faccio la creativa, quindi lavoro con la mia immagine e faccio delle pubblicità e le faccio in maniera diversa dalle altre, invece di mettere in realtà un dentifricio accanto al viso e mi faccio un selfie dicendo I use boh. Sì. Io faccio una roba un po' più divertente e casomai dico o quello che penso o l'abbino a un prodotto. Ecco, che ma quanti dopo tatuaggi hai addosso? Boh, li devo dovrei contare, non so, 6, 7. Tipo? Quanti ne hai? 6, 7? 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7. Ma sei nuda adesso? Beh, che ti frega? No, c'è mia madre e mio fratello accanto. Meno male. Guarda, è più spogliata mamma di me in questo momento. Vabbè, una bella famiglia, insomma. Sì. Ma perché non capisco? Perché uno c'è una maglietta, io ho invece il pantalone lungo. Ma uno non si può spogliare, Lidia, non ho capito. Ma qual è il problema? Non mi pare che sia... No, oggi non si spoglia più. Quando si va al bagno, si va al bagno con i pantaloni. Ah, perché tu fai anche la cacca ogni tanto? Io tutte le mattine. Immagini, tutte le mattine. Immagini, no, perché se no non inizia bene la mia. Ce la rende umana, diciamo. No, ma infatti questo io è importante. La cacca, pupù. Ma scusami, Nike, lo sai che Sgarbi va a cagare 8-9 volte al giorno, dice. 8-9 volte al giorno va a cagare, Sgarbi. Oddio, ma si prende qualcosa tipo. Ma non lo so cosa fa, 8-9 volte al giorno. Si prende qualcosa tipo i kiwi che si mangia, qualcosa che lo fa andare a fare. Beh, bene, vuol dire che sì, vuol dire che è ripulito. Sì, vuol dire che si ripulisce, vuol dire che si svuota molto. Senti, io volevo capire, ma quella, ma tu squirti? Sì, ogni tanto, ma solo da sola. Beh, che ci frega? Questo è importante, però, è importantissimo. Cioè, non è mai successo in compagnia. Non ti è mai successo in compagnia? Questa è una notizia incredibile. Cioè, nessuno è mai riuscito a farti squirtare? No. Non si è mai impegnato? Vabbè che tu non farai sesso da un po', immagino, come al solito. Racconti questa barzelletta, io non ci credo. Non ma credo. Perché no? Perché non scusa, ci credo? Quando c'ho qualcuno non mi sembra che non lo dico, quindi perché? Mi ci fotografo sotto gli alberi lunga, non ho problemi. Sì, quando d'accordo. Non lo faccio, sì. Non lo faccio. Da quanto tempo è che non fai attività sessuale, diciamo, con un sono uomo? Sono un po' preoccupata, neanche con donne, con niente, da settembre. Sei mesi, quant'è? Settembre, non lo so, aiutami. Settembre, ottobre, quanto è l'ultima volta quando ti sei lasciata con il signor Iari? No. Quando ti sei lasciata? No, era dopo Iari. Dopo Iari c'è stato qualcuno a Milano e è finito a settembre. Certo. A settembre. Yes. Vabbè, insomma, da settembre, eccetera. Però comunque lo squirt, che è una cosa che noi abbiamo approfondito molto negli ultimi mesi, tu riesci a farlo solo da sola? Solo ma è copioso questo oggetto? Beh, ma che ti frega? Perché da solo nel senso masturbandomi. Beh, sì, certo. Mio fratello e mia madre se ne sono andati, intanto, mi dovrei dire questo. Oh, beh, certo, questo è importante. Questo è importante. No, ma dico, lo squirt, dunque tu da sola praticamente, no? Signora Rinelli. Posso fare una domanda a voi uomini che siete tanto interessati allo squirt? Sì, cara. No, io ma non sono voi non avete fatto squirtare le vostre donne? Io sì, diverse volte, sì. Dottore è uscito, definitivo. Dottore è andato via. No, questo no, io sì. Parenzo non pratica questa cosa. Chi è che dice di sì? No, io che sì, sono Cruciani. Sì. No, Palenzo quando vengo è andato a Milano via. Andiamo a cena, ti va? Beh, questo è molto interessante. Molto interessante. Aspetta, ma tu sei sposato, cosato? Vabbè, poi questo lasciamo perdere, non è importante, dai, chi ci frega? Ma proprio tu sei attaccato a queste cose, la fedeltà. Io lascio soli a questo punto. E allora? Rispetto, vabbè, il rispetto che sarà mai? È tutto un gioco, la radio, Okay. No, ma comunque che peccato, vedi, è già finita così. No, però scusami, allora approfondiamo. Torna all'attacco. Ma no, un momento ho detto, ma forse esiste. Lì. Come lotta Cruciani che rimorchia col suo alla radio del Sole 24 ore, come lotta. Però scusa, ma guarda che annullazione non vuol dire trombare, ragazzi, eh. No, ma io infatti hai ragione. Forse io sembro una solo perché vado in giro nuda. Allora, vorrei dire una cosa. Ma infatti non trombi da settembre. Uno sta infatti sempre in giro nudo che si masturba, non vuol dire che ha rapporti sessuali. No, per carità, certo. Vuol dire che forse uno non li ha e quindi ti masturba anche un po' di più perché chiaro, è solo triste. Chiaro. Sì, e dunque tu riesci ogni tanto, ma quante volte squirti più o meno ogni volta che ti masturbi? Beh, no, sempre. Onestamente, io praticamente se mi masturbo con il mio spazzolino elettrico. Con lo spazzolino elettrico? Subito, sì. Ma che roba è? Lo spazzolino elettrico. Allora voi non capite niente. Cioè voi fate grandi uomini, non sapete. Ma che io non faccio una donna estremamente. 3 minuti 4 con uno spazzolino elettrico. E allora io devo attaccare questa telefonata perché. Cioè, con lo spazzolino elettrico, signora, quello. Scusi, signora, se non la moglie voglio parlare con lei. Scusa, lo spazzolino elettrico quale? Ma cioè, lo allora, non posso dire la marca. Okay? Qualsiasi spazzolino? No. No, quello che fa. Vabbè, sì, quello che vibra, tutti vibrano. Già. No, non tutti. Allora, uno c'ha un meccanismo rotondo da sopra, no? Che si gira da parte a parte. Sì, allora? Quello esternamente, se stai facendo l'amore con la tua compagna, sì. È una anche le donne poi da sole lo possono fare. Sì, da sole. Anche. All'esterno, lo metti all'esterno? Automobilisti che stanno prendendo appunti. Sul clitoride, insomma. Sì, sul clitoride. Fate una prova. Io, sì, segnalo code sulla A4. Segnalo code sulla A4. Macchine ferme che prendono appunti. Ci sono sulla A4. Macchine ferme. Dicela bene, di. Spazzolino elettrico, ovviamente lo lavate, usate la testina solo per voi, non per la bocca, cioè non usate quello degli altri. Beh, vabbè, si può anche usare. Grazie. Dopodiché, niente, o da sola la donna, o se no in compagnia dell'uomo è meglio. aspetta che figo. Sì, e poi? Praticamente, che ne so, se io adesso faccio l'esempio Cruciani, sì, no? Sì, sì. Io Cruciani, esempio... io metto sopra di Cruciani, no? Sì, sì, sì, sì, esempio sopra, ottimo, di scuola e proprio, uso, sì, o lui mi aiuta a usare il mio RB, sì, a fare dei grandissimi squirting. Beh, amica mia, questo è molto buono. Mio fratello se ne è riandato, era rivenuto, ma è scappato. Ti credo. Però ti allora credo. Io voglio dire una cosa: tu hai detto io sono bisessuale perché mi trasformo da femmina delicata a scaricatore di porto. Che vuol dire questa frase? Scusami. Che ogni tanto sono molto poco femminile, mi sento un uomo. Che so, vedi, una femmina poi se non direbbe mai che la mattina fa la cacca popò. Io sì, o se no, per dirti, ogni tanto mi sento uomo. Quando guardo le donne mi piace guardarle, capisco gli uomini. Cioè, ti piace guardare, ti piace ogni tanto fartele? Ma in questo guarda, non, perché devi sempre? Perché voi siete sempre lì, state. Cioè, uno può anche no, guardare. No, ma io ho detto niente, può anche guardare, va bene. Mi piacerebbe, sì, ma neanche quello. No, perché non sono una che fa sesso, come si dice, tanto per farlo. Comunque, secondo me, secondo me lo spazzolino è Oral B. Yeah. Secondo me è Oral B. Ma sì, ma chi non se ne frega? Solo adesso che te l'ho detto, se tu la prossima volta che vedi la pubblicità dell'Oral B, sì, facci caso che se parla a due tipi di clientela. Pure. Sì, sì. Ah, tu dici, internet, c'è un messaggio subliminale, Non c'è nulla neanche nei negozi di parafernalia porno stuff, no? Dove vendono le cose apposta. Non è la stessa cosa, almeno che non hai bisogno di qualcosa d'interno. Io mi piace l'esterno, quindi l'interno preferito. Ha risolto il problema la signora, certo. Va bene. Beh, diciamo siamo stati esaustivi 5 su questo tema. 5 minuti ci mettono, 5 minuti, cioè al massimo 5 minuti vieni? Mamma, ma dico quasi tutte, penso, a tutte le mie amiche. Ho fatto delle statistiche, degli studi, la signora. Beh, io benissimo, ti abbraccio fortissimo. Ciao, Nike, buona serata. Ciao, arrivederci, ciao, signora, ciao. Grazie. Poi portate a casa e passare a via le vostre donne. Ciao. Grazie, signora, del consiglio. Ragazzi, con questo consiglio abbiamo chiuso. Bravo, chiuso proprio. Tutto finito. Assolutamente. Gli spazzolini, però non è una cosa nuova. Gli spazzolini, e questo qua forse un po' nuovo è. Ciao. Comunque io vi seguo perché voglio sapere tutti questi termini sessuali che possono aiutare la convivenza. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.